want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telespro. Pomeriggio da GG Telesforo, appuntamento numero 81 del soundcheck di Radio 24, prova del suono quella di oggi con la quale iniziamo a scoprire le origini e la storia degli strumenti musicali partendo da uno dei più affascinanti, uno dei più antichi ma anche uno dei più difficili da suonare. Oggi parliamo della tromba, che è uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli ottoni, usato già nell'antico Egitto, dove i primi esemplari venivano impiegati prevalentemente per scopi militari, così come la buccina, che era uno strumento che veniva utilizzato dagli antichi romani proprio per impartire gli ordini alle milizie. Era un lungo tubo dritto realizzato in bronzo, poi nelle versioni successive il tubo venne ripiegato su se stesso, ottenendo così uno strumento notevolmente meno ingombrante e dunque più facilmente trasportabile, soprattutto in battaglia, dove i trombettieri dell'epoca, che quindi non erano ancora dei trombettisti, con le poche note a disposizione potevano indicare i diversi comandi che le truppe dovevano eseguire. Ma veniamo a noi. Se il primo musicista jazz fu il trombettista Buddy Bolden, del quale non esistono testimonianze fonografiche, se la prima registrazione della storia del jazz vede protagonista un trombettista, l'italo-americano Nick La Rocca, e se, come dice Wynton Marsalis, l'ultimo dei trombettisti sarà l'arcangelo Gabriele, sicuramente quello più carismatico e innovativo della storia di questo strumento è stato Louis Armstrong, noto con il soprannome di Satchmo ma anche di Pops. Nato a New Orleans il 4 agosto del 1901, Louis Armstrong muore a New York nel 71, raggiungendo nell'arco della sua carriera la fama prima come trombettista ma in seguito anche come cantante, riconosciuto come uno dei più grandi protagonisti della vocalità jazz soprattutto verso la fine della sua carriera. Louis Armstrong impara a suonare la cornetta in una banda musicale di un riformatorio di New Orleans, riformatorio per ragazzi neri, dove venne rinchiuso a 12 anni per aver festeggiato il capodanno del 1913 sparando in aria con un revolver rubato. Uomo generoso nella musica ma anche nella vita, perché pare abbia sperperato gran parte del suo patrimonio proprio per aiutare musicisti, parenti, colleghi e amici meno fortunati di lui, prima di morire disse: penso di aver avuto una bella vita, non ho pregato per ciò che non potevo avere e ho avuto all'incirca tutto ciò che desideravo perché ci ho lavorato. E ha lavorato tanto, e ha lavorato con i più grandi musicisti della storia del jazz, fra questi Duke Ellington. Qui al soundcheck di Radio 24 per parlare della tromba, strumento musicale meraviglioso, Louis Armstrong e Duke Ellington in due brani capolavoro come It Don't Mean a Thing If You Ain't Got the Swing e I'm Beginning to See the Lights. I never made love by atlanta and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your chops are burning mine, I'm beginning. Parliamo della tromba oggi al soundcheck di Radio 24 e qui era Louis Armstrong con Duke Ellington. Facciamo una breve pausa e torniamo prestissimo, sempre qui su Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. My mama was right, there's blues in the night. In and Night, tratto dal repertorio di Louis Armstrong, ma nella versione contemporanea di una decina di anni fa del bravissimo trombettista Nicholas Payton, qui in compagnia di Dr. John e Diane Reeves, da un album intitolato Dear Louis. In questo appuntamento del Soundcheck di Radio 24, con il quale vogliamo raccontarvi la tromba come strumento, abbiamo già raccontato la sua storia. La prima tromba era la buccina, uno strumento utilizzato dagli antichi romani in battaglia per impartire ordini alle milizie. Era un lungo tubo di bronzo che poi col tempo fu ripiegato su se stesso fino a raggiungere più o meno la forma della tromba contemporanea. Pensate che però soltanto nel 1813, quando furono applicati i pistoni, i musicisti riuscirono a eseguire più note della buccina, addirittura un'intera scala cromatica fino al limite fisico di circa 3 ottave. Vediamo però come funziona la tromba, questo meraviglioso strumento. Beh, un funzionamento complicatissimo, perché il suono viene prodotto immettendo aria nello strumento per mezzo della vibrazione delle labbra a contatto con il bocchino, in modo che esse producano un fine ronzio, o meglio una piccola pernacchietta, proprio perché la tromba è un labiofono, quindi non è la vibrazione di un'ancia come nei sassofoni o nel clarinetto ad emettere il suono, bensì quella delle due labbra del musicista. Il trombettista può scegliere la nota da emettere essenzialmente modificando la pressione del flusso dell'aria immessa e l'apertura labiale, utilizzando così i pistoni che permettono di modificare il percorso dell'aria nello strumento, alterandone la lunghezza e quindi variando la tonalità emessa. Con i soli 3 tasti della tromba in si bemolle, un trombettista può suonare in ogni chiave. Quindi il bocchino permette al trombettista un comodo appoggio delle labbra allo strumento per dare vita al suono. Il suono, nato per mezzo delle labbra, percorre così tutta la tubazione e viene amplificato dallo strumento per mezzo della campana. Esistono poi svariati bocchini che consentono al musicista di creare sfumature particolari nel suono. Ecco perché la tromba è ritenuto uno fra gli strumenti più difficili, proprio perché sono molte e varie le cause, come la condensa nel canneggio, la temperatura fredda, lo spostamento minimo delle labbra, che concorrono a far sì che l'esecutore possa prendere la cosiddetta stecca. Di stecche pochissime ne ha prese nella sua carriera un musicista che si chiama Wynton Marsalis. Forse ne ha prese quando studiava, quando era bambino, ma è un musicista impeccabile quando suona con le orchestre sinfoniche, quando suona jazz, quello di ieri e quello di oggi. E qui lo assaggiamo, ce lo gustiamo in un brano molto divertente insieme a Bobby McFerrin, intitolato Baby I Love You. Wynton Marsalis e Bobby McFerrin al Soundcheck di Radio 24, oggi tutto dedicato alla tromba come strumento. Soundcheck, il suono della musica. Appuntamento quello di oggi del nostro soundcheck dedicato alla tromba. Abbiamo tentato in qualche modo di raccontarne la storia, ma anche il funzionamento complicatissimo di questo meraviglioso strumento, che vede in Italia alcuni fra i migliori protagonisti della scena internazionale. Fra questi il mio amico Fabrizio Bosso, musicista preparatissimo che arriva dal conservatorio, che oggi è richiestissimo in tutto il mondo e che ultimamente ha pubblicato questo album molto bello intitolato Purple, con il quale celebra la sua passione per gli spiritual insieme allo spiritual trio con Alberto Marsico all'organo Hammond, è già stato nostro ospite anche Alberto per presentarci questa pubblicazione, e il batterista Alessandro Minetto. Eccolo qui Fabrizio. Fabrizio, che dire, è un musicista infinito, dotato tecnicamente di tutto quello che può avere a disposizione un trombettista, ma soprattutto un grande cuore e una grandissima energia, che qui ci viene proprio presentata in un brano, un classico della tradizione degli spiritual, intitolato This Little Light, però in versione più blues, ritmicamente uno shuffle irresistibile, così come è irresistibile Fabrizio Bosso qui al Soundcheck di Radio 24. Dopo Fabrizio Bosso, per chiudere in bellezza questa puntata dedicata alla tromba, due protagonisti del jazz internazionale italiani, miei amici, il decano del jazz italiano Enrico Rava incontra in questo album intitolato Shades of Chet un altro meraviglioso musicista come Paolo Fresu, accompagnati poi da un trio di eccellenze come Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Il brano si intitola Line for Lions, scritto da Jerry Mulligan proprio per Chet Baker nel periodo del cool jazz, e quindi a tutti voi buon pomeriggio e buona musica da Giorgio Telesforo con Enrico Rava e Paolo Fresu. Soundcheck. Il suono della musica.